Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno, siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Puntata numero 406, nella quale parleremo di cani usati come astronauti e di umani usati come cavie, di supermercati preoccupati e di attivisti compianti. Speriamo di avervi incuriositi. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Il 3 novembre del 1957, quindi 60 anni fa, l'Unione Sovietica lanciava nello spazio il satellite artificiale Sputnik 2. A bordo si trovava la cagnetta Laika, morta poco dopo il decollo. Nessuna gloria purtroppo per questa cagnolina, soltanto la triste storia di un atto di coercizione chiamato esperimento, che aveva l'obiettivo di valutare le condizioni di vita nello spazio in assenza di gravità, ma che si dimostrò fallimentare già dall'inizio. Le ho chiesto di perdonarci e ho pianto quando l'ho accarezzata per l'ultima volta, dice la biologa Adila Kotovskaya, oggi novantenne, che si occupò all'epoca del cane. Laika era una randagia di 3 anni e di 6 kg di peso, trovata tra le vie di Mosca insieme ad altri 5 o 6 cani candidati alla missione. Tutti vennero sottoposti a un addestramento durissimo che Laika superò guadagnandosi il ruolo di astronauta. La piccola cagnolina è così diventata il primo essere vivente mandato in orbita, un onore che purtroppo, come già avevano previsto gli scienziati, si sarebbe trasformato in un'atroce condanna a morte, perché la tecnologia non poteva ancora garantire il rientro in sicurezza delle capsule. I test prima del lancio sono stati durissimi. Laika fu abituata a vivere in una capsula di 80 cm, che nel tempo diventava sempre più piccola. Un'altra parte durissima dell'esercitazione consisteva nel far passare agli animali molto tempo in una centrifuga che simulava l'accelerazione e il rumore dei razzi, un'esperienza già traumatica per gli uomini che la scelgono, una vera e propria tortura per esseri inconsapevoli come i cani. Terminato l'addestramento, Laika venne spedita nello spazio dal Kazakistan il 3 novembre del 1957 a bordo dello Sputnik 2. Erano le 5:30 del mattino, ora di Mosca. Inizialmente, a parte un normale aumento del battito della cagnolina dovuto alla partenza, tutto era tornato nella norma e stava procedendo per il meglio. Il cane fece in tempo a compiere 9 orbite intorno alla Terra quando la temperatura della cabina iniziò a scaldarsi, raggiungendo i 40 gradi per via della scarsa copertura della navicella, temperatura proibitiva che portò il cagnolino alla morte per disidratazione. Ufficialmente Laika morì a causa del cibo avvelenato messo nella navicella per evitarle una morte dolorosa durante il rientro, ma la realtà dei fatti è molto più crudele. Il 14 aprile del 1958 il corpicino di Laika fu trovato carbonizzato all'interno della capsula recuperata al largo delle Antille. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Il 3 novembre diventa quindi un triste anniversario che vorremmo dedicare a tutte le vittime di abusi, ma in particolare a tutte le vittime di abusi a scopo scientifico e di ricerca. Ai 115 milioni di animali usati e uccisi nei laboratori scientifici ogni anno nel mondo, ma anche alle vittime umane della ricerca scientifica di ogni epoca. Perché forse è meno noto, ma anche gli umani sono stati e sono tutt'oggi utilizzati, spesso a loro insaputa, per gli esperimenti. Nel corso dei secoli gli uomini hanno fatto gli esperimenti più atroci sui loro simili. Sono stati usati contadini analfabeti, neri, prostitute, prigionieri di guerra, carcerati, soggetti psichiatrici e orfani. C'è sempre un inferiore che può diventare cavia. È solo il frangente storico a decretare se sarà un cane, un topo, una scimmia o un uomo. Citiamo alcuni dei più crudeli esperimenti compiuti su soggetti umani ai quali non è stata data la possibilità di scegliere. Il logopedista statunitense Wendell Johnson nel 1939 condusse un esperimento sulla balbuzie coinvolgendo un gruppo di orfani. Alcune delle vittime di Johnson rimasero talmente traumatizzate da non riuscire più a parlare correttamente e altre si rifiutarono addirittura di parlare per il resto della loro vita. Dal 1932 al 1972 il Ministero della Salute statunitense ha condotto uno studio sulla sifilide. 399 contadini poveri neri dell'Alabama, di cui 2/3 già affetti da sifilide, invece di venire curati, sono stati sottoposti a 2 anni di osservazioni ed esperimenti. Dei 399 infetti, 28 sono morti immediatamente e altri 100 a causa delle conseguenze indirette della malattia. Nel 1942 circa 400 prigionieri detenuti nei pressi di Chicago furono volontariamente infettati con la malaria per poter sperimentare gli effetti di un nuovo farmaco. Alcuni anni dopo, dei medici nazisti sotto processo a Norimberga citarono questo esperimento per sostenere e difendere le loro ricerche svolte durante l'Olocausto. Sempre nel 1942 la Chemical Warfare Service iniziò a sperimentare il gas mostarda su circa 4.000 militari. L'esperimento continuò fino al 1945 usando come cavie umane gli avventisti del settimo giorno, che preferivano prestarsi agli esperimenti anziché prestare servizio militare. È partito il 18 settembre e da Houston c'è un sacco di gente. Primo uomo che arriva su Giove, un boato d'applausi si muove. C'è sua moglie in sala controllo. Unit 731 era un noto comparto dell'esercito giapponese, nel quale durante la seconda guerra sino-giapponese e la seconda guerra mondiale venivano condotti esperimenti sugli esseri umani. Il responsabile di questo progetto era il microbiologo Shiro Ishii. Il repertorio prevedeva vivisezione senza anestesia, congelamento, scongelamento, amputazione di arti, anche questa senza anestesia, utilizzo di pulci infettate da peste. Shiro Ishii morì a 67 anni di morte naturale e senza avere trascorso un solo giorno in prigione. Quando si parla di crimini contro l'umanità, poi i nazisti sono ovviamente in prima linea. Sotto il regime, il dottor Josef Mengele condusse alcuni dei più atroci esperimenti su esseri umani. Un superstite racconta di 2 gemelli cuciti assieme nel dorso per studiarne le reazioni. Alla fine dell'esperimento i 2 bambini, ormai in condizioni pietose, furono riaffidati ai genitori, una coppia di zingari reclusi nel campo che li uccisero soffocandoli per evitare ulteriori sofferenze. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein. Laica, come i gemelli di Mengele, non possiamo definirla vittima della ricerca scientifica, ma di uno dei volti della scienza, cioè quello del potere, del dominio, della violenza e della segregazione degli oppressi, di logiche che giustificano l'asservimento del più debole e il suo sfruttamento da parte del più forte. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave. silenzio, non si sente niente più, solo help me, help me, help me, yeah. Poi silenzio e niente più. Hanno detto è un guasto banale, ma Mackenzie può ancora arrivare. Ed intanto si è perso il contatto, c'è chi dice c'è stato un impatto. Sono passati 3 anni a settembre, di Mackenzie non resta più niente. Solo un nastro che ha registrato una voce di uomo impaurito. E a proposito di asservimento e sfruttamento del più debole da parte del più forte, uno dei campi in cui queste logiche giocano più allo scoperto è senza dubbio l'allevamento animale. L'allevamento altro non è che un approfittarsi della sproporzione di forze in campo per fare quello che si desidera con i corpi altrui, fino a farli letteralmente a pezzi, impacchettarli e venderli in cambio di soldi. Ormai però l'insicurezza alimentare è dilagante e il consumo di carne è impicchiata nel nostro mondo occidentale. Per affrontare le inquietudini dei consumatori che si stanno rendendo sempre più conto che la carne e il latte che trovano nei supermercati non sono propriamente genuini, i big del settore e le istituzioni cercano modi per rassicurare il mercato. Questi temi sono stati al centro di un recente convegno organizzato da Coop Italia. Sentiamo il servizio a cura della nostra Roberta Marino. Sulla locandina dell'evento fanno capolino figure di animali di carta quasi sorridenti e rassicuranti. Sopra il titolo suona come uno slogan del futuro: il nostro impegno per il benessere animale non è solo sulla carta. Questo è l'invito che la Coop ha lanciato ai consumatori per il convegno a porte aperte Alleviamo la salute, che si è svolto a Milano venerdì 27 ottobre presso la facoltà di veterinaria e che ha visto la partecipazione, oltre che di responsabili dell'azienda, anche di ricercatori e veterinari stessi. Un titolo che fa eco alla campagna avviata dalla Coop insieme alle istituzioni sostanzialmente per eliminare o ridurre l'utilizzo di antibiotici negli allevamenti. Una pratica che, dicono, favorirebbe il benessere degli animali che, aggiungono con una frase che suona sibillina, è nell'interesse di tutti. In realtà l'interesse è volto essenzialmente al prodotto animale da mettere sul mercato e all'impatto sulla salute umana, o meglio dei consumatori. Su quella che poi è l'idea di benessere degli animali basta ascoltare alcuni stralci del convegno stesso, relativi peraltro anche alle pratiche degli allevamenti cosiddetti biologici. Sentiamo. In diversi modi a seconda della specie, però l'animale in stato di stress, soprattutto se lo stress è cronico, produce meno. Quindi ingrasserà meno, produrrà meno latte, produrrà meno uova e così via. Quello che vi volevo far notare, spero che lo vediate, questo è un allevamento biologico, un allevamento molto molto bello, nel senso che ha tutti gli spazi ben attrezzati e tutto. Queste due galline sono beccate e non sono quelle che sono messe peggio, perché a volte arrivano anche a uccidersi. Il benessere peggiora, non migliora. Perché le condizioni di benessere medie dei nostri allevamenti intensivi, convenzionali, non sono poi così male. Se si trova, per l'amor del cielo, poi dipende, io parlo sempre da un punto di vista oggettivo. Mentre all'interno un folto pubblico ascoltava le parole rassicuranti dei relatori al convegno, fuori alcuni attivisti di Oltre la specie bioviolenza hanno protestato, ricordando che non esiste benessere in nessun allevamento. Sentiamo Marco e Ornella. Chiaramente loro percepiscono che i consumatori sono preoccupati della propria salute e in parte anche delle condizioni degli animali. Come dire, collegano questo discorso di salute umana al benessere animale, quindi sostengono che migliorare il benessere animale fa bene a tutti, eccetera. In qualche modo le solite menzogne che portano avanti per tranquillizzare un po' le coscienze. Lo fanno però con una serie di invitati importanti, e originariamente era previsto anche un intervento che poi è stato escluso, è stato tolto, un intervento con un relatore di un'associazione animalista. Anche questo, insomma, per noi in qualche modo era un tentativo di far vedere che ci sono anche parti del mondo animalista che sostengono questo discorso. Però appunto noi oggi siamo qui a far vedere che rifiutiamo assolutamente questo tipo di retoriche, che per noi appunto gli allevamenti non possono mai essere sostenibili, che il problema non sono gli antibiotici ma sono il fatto che gli animali vengono rinchiusi e macellati ovviamente. Questa azienda della grande distribuzione insieme agli allevatori cercano ultimamente di assimilare sempre di più le istanze portate avanti anche da una certa parte del mondo animalista, un effetto deleterio anche sul resto della lotta contro lo sfruttamento e l'uccisione degli animali, perché appunto questo discorso tende ad acquietare le coscienze dei consumatori anche più attenti, per cui risulta un doppio inganno sia per loro che per gli animali che ovviamente vengono continuamente uccisi. E dopo aver aperto le porte del convegno, la COP ha pensato, con buona pace delle investigazioni, di spalancare anche quelle di un suo allevamento intensivo di bovini da carne. Una visita voluta dall'azienda per tranquillizzare i consumatori sul fatto che gli animali vivano bene e vengano macellati nel modo adeguato, dicono. Peccato però che di macellazione non se ne parli affatto. Lo stesso allevatore, con un abile giro di parole, infatti chiosa: raggiungono il giusto grado di peso e di maturazione e vengono poi avviati per la grande distribuzione, per il consumatore finale. Insomma, né più né meno di un pacco o al limite una mela colta dall'albero. Del resto, non sono considerati merce anche loro? Roberta Marino, corrispondente da Milano per Restiamo Animali. La lotta non è per noi, è per ogni animale che ha sempre sofferto ed è morto nei laboratori di vivisezione. Così scriveva Barry Horn, l'attivista britannico che ha dedicato la vita alla battaglia per la liberazione animale fino al punto di morire il 5 novembre del 2001 nell'ospedale di Ronkswood a Worcester per complicazioni al fegato in seguito all'ennesimo sciopero della fame. Il terzo sciopero, dopo il primo nel 1997, durato 35 giorni, con l'obiettivo di indurre il governo britannico ad aprire un'inchiesta sulla vivisezione. E poi il secondo, solo pochi mesi dopo, per protestare contro le mancate promesse dei laburisti in favore degli animali. Nato a Northampton nel 1952, Barry si impegnò inizialmente sul fronte antifascista in supporto alla causa nordirlandese. Fu poi a partire dal 1987 che iniziò il suo attivismo animalista e antispecista. Nella sua prima campagna riuscì a ottenere la chiusura dei reparti pellicce a Northampton, ma il suo ricordo è legato indissolubilmente soprattutto alla lotta contro la vivisezione. Il 1 gennaio del 1990 Barry e altri compagni liberarono in pieno giorno 36 beagle dall'allevamento dell'Università di Oxford. E pochi mesi dopo altri 82 cuccioli di cane e una trentina di conigli vennero fatti uscire da Interfauna, un fornitore di animali per i laboratori di sperimentazione. Promotore dell'azione diretta, nel 1996 Barry venne arrestato in un centro commerciale perché trovato in possesso di congegni incendiari. Da tempo nel mirino per la sua battaglia contro le multinazionali legate alla vivisezione, il giudice lo accusò di terrorismo e lo condannò a 18 anni di prigione, definendolo violento e pericoloso, nonostante non avesse mai usato violenza contro nessuno. Anche da dietro le sbarre però Barry non si arrese, la sua lotta continuò con i 3 scioperi della fame dentro al carcere, mentre fuori gli attivisti organizzavano proteste, liberazioni e manifestazioni in solidarietà. E quando il governo britannico decise di rinnovare la licenza ai funzionari di Huntington Life Science per continuare l'attività di Vivi Settori, Barry Horn fu pronto ad arrivare fino alle estreme conseguenze e rischiare la sua vita. Dopo 68 giorni di sciopero della fame, il suo corpo, fortemente compromesso, si ridusse allo stremo. Aveva 49 anni. Il suo corpo fu sepolto in un cimitero ecologico a Olney, un semplice prato dove un albero viene piantato nel luogo in cui giace il defunto, che sarà l'humus per la sua sopravvivenza, proprio come il ricordo di Barry Horn, che continua, oltre la sua morte, a dare nutrimento a quel movimento di liberazione animale che anche quest'anno ha ricordato l'anniversario della sua scomparsa con una settimana internazionale per l'azione antispecista, con proteste e manifestazioni in tutto il mondo, oggi come in quel 5 novembre del 2001. Il brano che prendiamo in esame oggi si chiama Laika, scritto e cantato da Will Wagner, musicista di Melbourne, qui in veste di solista, ma che è anche il leader del gruppo The Smith Street Band. Nel 2013 pubblica Laika, un album solista con venature più acustiche rispetto al sound della band. Il testo della canzone è incentrato su ciò che vede e sente la piccola cagnetta dalla gabbia dove è rinchiusa, che ha già capito che dovrà subire qualcosa che vorrebbe evitare. Una struggente ballata in memoria di Laika, quindi. Buon ascolto. Taught me to lie down, told me that 1,000 years of wandering would end now. And they fed me my last meal, was the same as my first, from here in my cage, I watch the man walk. And now it's a flurry of lab coats and hurry. They talk about budgets and taxpayers' money. And I'll wag my tail and I'll be a good girl. They forgot to walk me this morning. They were too busy changing the world. And I'm out from my cage, and I'm trying to be brave, but the men, they are sweating, and now they're injecting. And as I awake, I'm shocked and amazed at the sheer crushing empty. And I look down on man's little earth, sitting there quietly wondering what it's worth. And I drift away, but that's okay, there's more room to play out here, back in my cage. And I know I will die, but that is fine, 'cause in some way I am helping mankind. And I don't understand, 'cause I'm not as smart as that. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. La mia mente ha preso il volo, un pensiero uno solo. Io cammino mentre dorme la città, i suoi occhi nella notte. Dai Gorillaz ad Ascanio Celestini, passando all'omonima ditta produttrice dei famosi Caravan, sono tanti gli omaggi resi in memoria di Laika. E da oggi, nel mio piccolo, si aggiunge anche la mia dedica, ispirata a quello spazio che ci ha raccontato la sua triste e ingiusta storia. Le dosi per 10 Space Plumcake monoporzione sono un cucchiaio di semi di canapa, 2 chiodi di garofano, un pizzico di cannella in polvere, un pizzico di pepe nero macinato, un pizzico di noce moscata macinata, 30 g di olio di semi di girasole, 120 g di zucchero di canna, 200 g di farina, 20 g di cacao amaro in polvere, una bustina di lievito per dolci, un pizzico di sale, 100 g di cioccolato fondente e 100 ml di panna vegetale non zuccherata. Fate un infuso con 200 ml di acqua e le spezie, chiodi di garofano, cannella, noce moscata e pepe, e lasciate raffreddare. Trascorso il tempo necessario, aggiungete all'infuso l'olio, lo zucchero e il pizzico di sale. A parte, in un altro recipiente setacciate la farina assieme al lievito e al cacao amaro. In una sola volta unite la parte solida a quella liquida, mescolando con una frusta. Lavorate fino ad ottenere un impasto liscio e cremoso. Aggiungete una parte dei semi di canapa e mescolate ancora una volta. Versate il composto negli appositi stampini da plum cake e fate cuocere in forno statico a 180 gradi per 30 minuti circa. Lasciate raffreddare e nel frattempo fate sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria. Quindi mescolate delicatamente con una frusta e unite la panna vegetale. Glassate plum cake con la salsa di cioccolato e decorate con i rimanenti semi di canapa. Vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione al completo, che è composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata 407 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.